e adesso parlerà. Continuiamo subito. Continuiamo e adesso parlerà Monsignore Igilio Roger sul tema tanto atteso di Hubert Jedin e Trento. Prego. Microfono. Grazie. Non so se funziona, ma almeno facciamo finta. L'ultima consistente storia del Concilio di Trento anteriore a Jedin, quella del Richard, uscita nel 1930, nella pagina dedicata alla descrizione dell'ambiente, fornisce della città e della regione tridentina un'immagine poco lusinghiera. Si parla di una città ad aspetto medievale, con strade strette e case scomode, in cui scarseggia perfino l'acqua potabile. L'umidità impregna gli edifici che non sono difendibili sufficientemente dal terribile freddo invernale e respirano i miasmi insalubri del fondovalle fangoso nella vampa soffocante del calore estivo. La città è circondata da montagne che vanno dai 3.000 ai 4.000 metri, coperte da ghiacci e da nevi perenni. La valle è solcata, cito, dal corso torrentizio dell'Adige e da quello non meno fangoso dei suoi affluenti, l'Isarco in particolare. Solo verso mezzogiorno essa, cito ancora, si allarga un po' alla volta a destra e a sinistra per aprirsi sul lago di Garda in una piana disseminata di vigne e di frutteti. Un quadro certo poco benevolo e nel contempo molto irreale. Si direbbe che chi lo ha descritto non è mai stato a Trento e si è limitato invece a riprendere in maniera sfocata e unilaterale certe lagnanze tendenziose che si trovano nelle corrispondenze dei personaggi conciliari. Contrapporre a questo quadro la descrizione che Jedin fornisce dell'ambiente di Trento nell'ultimo capitolo del suo primo volume della storia del Concilio, uscito nel 1949, è sommamente istruttivo per chi vuol capire il suo metodo di lavoro e quella sua decisa volontà di accostarsi realisticamente ai fatti. La sintesi che egli traccia della situazione istituzionale, politica, economica, urbanistica e logistica della città di Trento nel Cinquecento è così fedele e così reale da costituire un valido punto di riferimento per gli stessi studiosi di storia locale. Il profilo dei due principi vescovi del tempo, il cardinal Clesio e il cardinal Madruzzo, non è solo bibliograficamente completo, ma ha il pregio di rievocare al vivo le due personalità come nessun storico finora ha saputo fare. Da una visione molto più attenta e documentata delle cose, Jedin ha ricavato un quadro certamente più positivo della città ospite del Concilio, pur senza ignorarne le ombre e i disagi. Egli non manca di ricordare anche i difetti dei trentini di allora, ma lo fa con evidente sensibilità di amico, come quando ad esempio ricorda che del rincaro dei generi alimentari durante il Concilio i trentini non erano solo causa ma anche vittima, oppure quando rimensiona certe lagnanze contro l'inefficienza del luogo ricordando che non vanno misurate con i nostri criteri odierni. Del resto ieri è stato anche citato un bellissimo passo di questa valutazione positiva che Jedin dà sulla base delle fonti di Trento. Il senso di realtà con cui nel 1949, più precisamente già nel 1945, quando lo scritto fu concluso, descriveva la città del Concilio, era frutto già a quell'epoca, oltre che di studio, di un contatto diretto con la terra e con gli uomini. Se prescindiamo da qualche eventuale rapida visita dello studioso ancora sconosciuto a Trento negli anni precedenti al 1939, La grande occasione che avvicinò Trento a Yedin e Yedin a Trento fu l'iniziativa della celebrazione del quarto centenario del Concilio. La diocesi di Trento aveva mosso in questo senso i primi passi fin dal 1937 per volontà dell'arcivescovo Endrici, che nell'anno seguente costituiva un apposito comitato di ecclesiastici e laici, assegnandoli quale segretario l'allora direttore del settimanale diocesano Vita Trentina, Don Giulio De Lugano. Il comitato prevedeva anche un settore di attività di studio, o come allora si amava dire, di iniziative letterarie. Abbracciava così l'idea della pubblicazione, cito, di una rivista di contenuto storico-dottrinale in preparazione al concilio. Iniziativa veramente ambiziosa se si guarda a quello che poteva essere per allora l'apporto degli studiosi locali, ma proprio per questo abbastanza significativa per indicare il coraggio con cui fu affrontata l'impresa. De Lugan nel dicembre 1939 fu a Roma, dove prese i primi contatti per la costituzione del comitato redazionale della rivista, ed ebbe a tal fine un primo incontro con Yedin, che da poco più di un mese s'era trasferito nell'Urbe, col proposito maturato di dedicarsi alla storia del Tridentino. Nel comitato redazionale, che veniva a costituirsi formalmente di lì a un mese, il nome di Yedin figura, non casualmente, in terzo luogo, subito dopo i nomi di Monsignor Angelo Mercati e di Monsignor Paschini. Un nome che non figura ufficialmente in questi primi contatti, ma che non è dissociabile da essi, è quello di Alcide De Gasperi, allora segretario della Biblioteca Vaticana. De Lugan non si muove a Roma senza di lui. Ed è proprio De Gasperi che nel marzo 1940 riferisce in via confidenziale a De Lugan le conclusioni alle quali, incaricato dal Santo Padre, è giunto l'eminentissimo Cardinal Mercati, cito le parole del protocollo in cui la lettera è riassunta, sulle iniziative letterarie da prendersi in occasione del centenario. De Gasperi nel 1942 pubblicava sull'Osservatore Romano, dal 4 al 6 maggio, un ampio articolo sulla celebrazione centenaria del Concilio Tridentino, dove citava come il più importante tra i voti del Comitato Redazionale Romano quello che in occasione del quarto centenario si pubblichi una storia del Concilio, una storia, cito ancora De Gasperi, si pubblichi una storia del Concilio, una storia aggiornata che utilizzi tutte le fonti edite negli ultimi anni, soddisfi a tutte le esigenze critiche delle presenti generazioni e ritragga nella loro verità gli elementi umani e divini del memorando fatto storico, cioè le sublimi forze spirituali che lo animarono e lo condussero a compimento, e le condizioni degli uomini e dei tempi che imposero i limiti e le particolari forme della sua figura concreta. Nello stesso articolo De Gasperi vedeva ed annunziava in Yedin il futuro storico del Concilio. Ancora De Gasperi andava raccogliendo e trasmettendo a De Lugan dalla Biblioteca Vaticana elenchi di libri che riteneva utili acquistare per una costituenda biblioteca di studi conciliari a Trento. Chi ricorda il calore umano di De Lugan non si sorprende se vede svilupparsi da un primo contatto di consulenza con Yedin un rapporto di stima e di amicizia che doveva durare quanto la vita. Yedin fu ospite di De Lugan a Trento nel 1940. Come egli nota, fu da De Lugan accompagnato ad incontrare un altro personaggio trentino che in seguito di tempo doveva conquistare grandemente il suo affetto, l'avvocato Carlo De Luterotti, ex magistrato dell'epoca austriaca, poi operante a Bolzano, erede della proprietà trentina dei consolati in Fontana Santa, attento e consapevole osservatore di tutte le vicende attraversate dal Trentino e dal Sud Tirolo negli ultimi decenni. Collegava Iedin alla famiglia de Luterotti la conoscenza di un monaco benedettino, Pater Nicolaus, fratello dell'avvocato Carlo, conosciuto e venerato da molto tempo da lui, perché priore dell'abbazia di Grüssau in Slesia, rimasto poi come unico sacerdote di lingua tedesca in quella regione a confortare la popolazione negli anni tremendi dell'espulsione e dell'assoggettamento. La villa trentina di Fontana Santa diveniva così anche un tramite di collegamento con la patria slesiana perduta. All'amico e ospite Carlo de Luterotti, Iedin dedicò più tardi una rievocazione ampia e commossa sulla rivista bolzanina Der Schlern, che non è priva di interesse per la sua stessa bibliografia. A De Lugan e a De Luterotti fanno regolarmente capo le replicate presenze di Iedin nel Trentino negli anni 40. Iedin fu a Trento ancora a Capodanno 1941 per lo studio della corrispondenza clesiana. Nell'estate 1942, mentre nell'inverno successivo, passava un periodo di riposo a Predazzo, ospite di quel ricovero di cui ricordava dopo molti anni ancora la superiora, madre Ianeselli, generosa di nome e di fatto, come egli soleva dire. A Predazzo si trattenne anche nel maggio 1943, nell'estate del 1946 e del 1948, conoscendovi tra l'altro il fratello di Alcide De Gasperi, Augusto. Intanto, fra il 1942 e il 1947, si sviluppava e concludeva la sua esistenza anche la rivista del centenario, intitolata appunto Il Concilio di Trento. L'entusiasmo con cui era stata avviata fu assoggettato alle più dure prove dallo sviluppo delle vicende belliche. Un primo numero riusciva a vedere la luce nell'ottobre 1942. Il 1943 vide uscire, malgrado le tremende vicissitudini di quell'anno, tutti i quattro fascicoli previsti. Invece, nel marzo 1944, anche De Lugan, che qualche mese prima aveva assicurato Iedin di voler continuare fino all'impossibile, fu costretto per forza a ripiegare. Il materiale che ancora restava fu pubblicato dopo la guerra, nel 1947, in un unico fascicolo conclusivo che comprendeva anche la relazione delle celebrazioni centenarie del dicembre 1945. Contemporaneamente si poteva annunciare, in continuità ideale verso tempi migliori, la nascita imminente della rivista di storia della Chiesa in Italia, alla quale Iedin partecipava attivamente. Nel loro insieme, il gruppo dei sei numeri della rivista trentina del centenario costituiscono un apporto ancor oggi utile e ingiustamente trascurato. Il contributo che Iedin vi ha portato non si limita agli articoli e alle note con cui egli si rese presente in ogni fascicolo, ma comprende anche un'opera costante di ispirazione e di stimolo, una ricerca continua di contributi da parte di altri studiosi, una preoccupazione condivisa e sentita come propria. Non è espressione convenzionale se De Lugan, nell'esprimere i ringraziamenti finali del Comitato Trentino, ricorda Iedin subito dopo il Cardinal Protettore e Monsignor Paschini, dicendo di lui che fu, cito, più che collaboratore, amico sempre largo di consigli e di assistenza. La capacità di condividere con De Lugan il peso della celebrazione centenaria, Iedin la estese anche al di là dell'ambito scientifico della rivista. A un dato punto lo troviamo impegnato a cercare un artista per un mosaico da realizzare nel Duomo di Trento e l'aveva trovato nel benedettino padre Adalbert Kresnicht, già famoso per i suoi lavori in Cina. Molte sollecitudini e li spese anche per la riuscita della iconografia del concilio, affidata al dottor Kurt Rathe, bibliografia che purtroppo rimase incompiuta e poi sconvolta a seguito della morte dell'autore. Il passaggio di Yedin da Roma a Bonn nell'aprile 1959 conclude in certo modo, 1949 scusa, conclude in certo modo questo primo periodo di relazioni trentine. Nel frattempo, mi si consenta di ricordarlo, avevo avuto anch'io la fortuna di incontrarlo e di vivere sotto il medesimo tetto dall'autunno 1947, godendo della sua amicizia e del suo aiuto negli anni in cui mi stavo accostando agli studi di specializzazione sul Concilio di Trento. Anche questo diveniva un nuovo fattore di collegamento di Yedin con Trento. Ricordo che nei giorni della sua partenza da Roma scrivevo a De Lugan queste parole: mi lasciò la sicurezza che le sue simpatie per il Trentino non si estingueranno e la speranza di poterci rivedere tra i nostri monti. Yedin non è uomo da dimenticare i vecchi amici, specialmente se incontrati da lui in luoghi così cari come sono per lui tanto Roma che Trento. Nel decennio seguente la corrispondenza diventa talvolta più rada e ripetutamente fu lui a rompere il silenzio con l'esordio che gli era familiare: da tempo immemorabile non ho avuto notizie di lei, seit unvordenklichen Zeiten, eccetera. Visite agli amici di Trento si registrano negli anni 1956, 57, 58 e 59. Nel 1958 Yedin rifletteva già sul programma scientifico in vista dell'anno centenario 1963. Nell'ottobre dell'anno seguente, incontrandomi a Passavia in occasione della Generalversammlung der Goethe-Gesellschaft, mi affidò il primo abbozzo di programma del convegno di studio sul Concilio di Trento e la Riforma Tridentina che si progettava di promuovere in collaborazione col Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Egli stesso si assunse nei mesi seguenti la fatica di ricercare l'adesione di alcuni illustri studiosi e quando nell'ottobre 1960 egli comparve nuovamente a Trento, l'impostazione del convegno era virtualmente completa. Nel 1961 l'amministratore apostolico Monsignor Gargiter promosse la costituzione del nuovo comitato presieduto dal commendator Giacomo Dusini, che doveva portare il peso finanziario e organizzativo delle celebrazioni del 63. Yedin ci fu spiritualmente molto vicino in quegli anni e con lui ragionammo di tutto il programma delle celebrazioni in occasione di una sua nuova presenza nell'ottobre 1961. Alle celebrazioni stesse, poi, Yedin donò una sua partecipazione personale molto consistente. Fu a Trento per l'apertura delle festività il 17 settembre 1962, quando il Cardinale Ercaro presiedette qui la commemorazione della sessione 22esima col decreto sulla messa, in un clima quanto mai fervido di attese per la nuova Costituzione liturgica del Vaticano II. Dopo l'arrivo del nuovo arcivescovo Monsignor Gottardi, nella primavera del 1963, le celebrazioni poterono riprendere con ritmo sicuro. Yedin animò e guidò il progettato convegno internazionale di studio, tenutosi fra il 2 e il 6 settembre di quell'anno, con oltre 200 partecipanti e la partecipazione prestigiosa del Cardinale Urbani e del Cardinal Bea. Yedin vi trattò nel primo giorno il tema del dibattito sull'obbligo di residenza dei vescovi negli anni 1562-63. Dal 5 all'8 ottobre seguente, Trento fu sede dell'assemblea annuale della Goethe-Gesellschaft, fatto assolutamente eccezionale nella storia dell'associazione, per il quale Yedin s'era andato adoperando da molti mesi. Tenne egli stesso nel pomeriggio della domenica 6 ottobre la conferenza pubblica nella sala maggiore del Castello del Buon Consiglio, parlando sul tema «Il Concilio di Trento nella prospettiva del XX secolo», conferenza che egli replicò il giorno seguente per un pubblico italiano nel Palazzo dell'Università. L'accoglienza che Trento fece alla grande associazione culturale dei cattolici tedeschi fu così cordiale da dissipare anche le ultime preoccupazioni che s'erano avute in un primo momento con riguardo ai problemi dell'Alto Adige. L'Assemblea di Trento, impreziosita tra l'altro da uno splendido ricevimento serale in Villa Fontana Santa, lasciò indietro un alone di simpatia che ancora non è tramontato. Al convegno della Goethe's Gesellschaft si accodò la conferenza dei professori tedeschi di storia della Chiesa, organizzata anch'essa da Jedin e onorata, fra l'altro, della presenza di Josef Lorz, che rimase incantato dell'ambiente trentino. Jedin partecipò infine alle celebrazioni conclusive del 12-15 dicembre 1963, presiedute dal cardinale papale, dal legato papale cardinale Urbani. L'arcivescovo di Trento, Monsignor Gottardi, in riconoscimento dei suoi meriti, lo annoverava in tale occasione tra i canonici ad honorem, e così nel pomeriggio del 15 dicembre Monsignor Jedin fu formalmente insediato in quel coro della cattedrale di San Vigilio che egli ben conosceva come il luogo normale delle solenni sessioni conciliari. Ancora il 19 dicembre il Consiglio Comunale di Trento gli deliberò il conferimento della cittadinanza onoraria, che gli fu poi solennemente consegnata dal sindaco dottor Nilo Piccoli il 24 dell'anno seguente. Ambedue i riconoscimenti provenivano da un profondo apprezzamento di quello che Jedin aveva operato per Trento. Per comprendere quanto a lui tornassero graditi, occorre ricordare quale profonda ferita rappresentò sempre in lui il pensiero della patria slesiana perduta e come continuamente ritornava l'idea di una seconda patria. Il commento che egli dava in una lettera era questo: «Io mi sento con ciò collegato nel modo più stretto con la città del Concilio e più che mai obbligato a condurre a termine la mia opera». La conclusione della storia del Concilio a cui qui allude avrebbe desiderato siglarla proprio a Trento, anche se poi le circostanze portarono diversamente. Jedin, come ieri è stato anche ricordato, non mancò di dichiarare in occasione solenne che l'essersi consacrato per 36 anni alla storia del Concilio, egli l'aveva intesa, e cito, non da ultimo anche come servizio alla città e alla diocesi di Trento. Il terzo capitolo dei rapporti Jedin-Trento si lega alla fondazione e ai primi anni di vita di questo istituto storico italo-germanico. Le riflessioni preliminari ebbero luogo nel 1972 e 1973, grazie soprattutto alla chiamata del professor Paolo Prodi, affezionato discepolo di Jedin, al rettorato dell'Università di Trento. Nell'aprile 1973 Jedin ebbe a Trento incontri col presidente Kessler, con l'assessore Lorenzi e col vecchio amico De Lugan, ancora vivo ma ormai al tramonto. Il 16 aprile Jedin impegnò la sua adesione. Il 3 novembre seguente, dopo essere stato eletto primo presidente dell'istituto, pronunciava il discorso inaugurale, nel quale illustrava il ruolo della storia, oggi più necessario che mai, per confrontare l'uomo col banco di prova dei fatti e addestrarlo alla critica delle ideologie. La particolare attitudine di Trento a ospitare un istituto di questo tipo la esprimeva, oltre che in questa occasione, nel marzo 1975, nelle parole di introduzione alla lezione pubblica del professor Mohr e in quelle pronunziate il giorno dopo, qui alla Villa Tambosi, in occasione dell'apertura della biblioteca dell'istituto. Rifacendosi alla dedica dell'edizione del Pincio del 1648, in cui si legge La regione trentina è da Dio collocata in mezzo all'Italia tutta e la Germania? Jedin sviluppava questa riflessione. È esattamente l'idea che ha animato noi a fondare l'Istituto Italo-Germanico in Trento, sottolineato. Ciò vuol dire che questo istituto non si trova per caso a Trento, ma è in Trento, dunque trentino, in un posto dove si incontrano le due culture, quella italiana e quella germanica. L'istituto storico ha il compito di promuovere l'incontro e l'intendimento delle due culture per mezzo di studi storici. L'istituto ha un compito così alto, cioè di intensivare il contatto tra la storia dei due popoli, tanto ricchi di storia come sono il popolo italiano e quello germanico, in un punto come Trento, dove il contatto reale c'era da secoli. Non c'è dubbio che a questo proposito Jedin attribuiva al mondo trentino una particolare sensibilità e una particolare vocazione. Fu questa l'idea in cui egli credette fermamente nel partecipare alla fondazione dell'istituto. Per essa incontrò anche qualche incomprensione e perfino qualche umiliazione. Malgrado questo, la sostenne con fiducia incrollabile fino al suo ultimo giorno. La sua presenza a Trento due volte all'anno per le riunioni del Comitato Scientifico fa parte ormai della vita dell'Istituto. Per l'Istituto egli tenne nel novembre 1975, mentre usciva alle stampe il suo quarto e ultimo volume, la sua opera fondamentale, quella memorabile conferenza pubblica, come e perché ho scritto la storia del Concilio di Trento, nella sala del Palazzo della Regione, nella quale tutti sentirono vibrare profondamente la sua anima. Nel settembre 1977 egli coordinò e diresse il seminario sul Concilio di Trento come crocevia della politica europea. Queste ultime presenze a Trento furono per lui fonte di grande e aperta soddisfazione, condivisa da quanti gli furono vicini. Andavano però anche divenendo un peso sempre maggiore per l'avanzare dell'età e il doloroso declino della salute. Al tempo della sua ultima visita a Trento, sui primi di marzo 1978, egli cominciava ormai a pensare di recedere dalla sua carica di presidente e divenne poi irremovibile su questa decisione, poiché, come diceva, non si sentiva più in grado di seguire la vita dell'istituto in quella misura in cui lo desiderava e lo doveva. La sua chiarezza ci costrinse ad accettare e un anno fa gli fu decretata la qualifica di presidente onorario. Tuttavia l'interessamento per la vita dell'istituto rimase in lui invariato. Ancora nell'ultima visita in cui con l'onorevole Kessler e il dottor Andreolli ebbimo a incontrarlo a Landshut nell'aprile scorso, egli ci raccomandava con appassionato calore la cura per l'avvenire dell'istituto. Come noto, Jedin ha legato in morte alla Cattedrale di Trento la sua biblioteca e i suoi manoscritti, con la prospettiva che essi siano depositati e resi disponibili agli studiosi nella biblioteca dell'Istituto Italo-Germanico. Dai tempi in cui con Alcide De Gasperi e Don Giulio De Lugan sognava la costituzione di una biblioteca di studi conciliari a Trento, questo fatto dimostra una linea di coerenza e di predilezione concreta che si è andato sviluppando in modo sempre crescente nell'arco di 40 anni. Fin qui la mia parte ufficiale, se consentite, dato che ho la parola, devo aggiungere primo un ringraziamento cordiale al dottor Dice, esecutore testamentario di Jedin, che ci ha aiutati in una maniera immensa per realizzare il trasporto dei libri di Jedin a Trento, dove essi sono arrivati fin dai primi di settembre. Seconda osservazione che mi permetto di aggiungere in questo incontro, dove appunto anche direi il sentimento personale può avere un certo spazio, è questo: Jedin era pienamente consapevole che i suoi discepoli, nel loro insieme, non avevano tutti i medesimi gusti, i medesimi indirizzi, le medesime idee. Non è che ne fosse neanche sempre felice di queste differenze, ma una cosa credo di poter affermare, per quanto io l'ho sempre sentito parlare: a nessuno ha mai negato l'affetto fedele, l'amicizia che egli aveva contratto fin dall'inizio, malgrado diversità di idee o di indirizzi. E credo che anche in questo per noi è stato un grande esempio.